E rieccoci. Salve, bentornati, bentornate. Domenica, come tutti i pomeriggi delle domeniche, partita, anche di agosto. Partita così oggi. Sì, sì, che sembra un po' il calcio, la partita. E invece no. E invece no, vi puppate anche d'estate, in mezzo a tutte le repliche estive. Invece noi vi proponiamo qualcosa di sempre nuovo e sempre diverso, alla fuga del gatto. Eh sì. Sì. C'è questo ventilatore che rientra tantissimo nel microfono, infatti vero? Sto cercando con una mano con un'altra mano con di arginarlo. Ecco. Vabbè, ma se no. No, però l'ho piantato su di te, scusa. No, no, ma no, va bene. Ok. No, scusate, non volevamo rendervi partecipi. Però, qui, insomma, c'è un'officina notevole. Fa caldo, d'altronde nella Batcaverna. No, caverna. Scusate, nella Wombat Caverna. Nella Wombat Caverna fa comunque caldo perché noi abbiamo la pellicetta da wombat, per cui ci fa caldo comunque d'estate. Seppure estivo. Esatto, sì, la cambiamo ovviamente. Bella, bella, la vedeste. Carina, veramente. Carina. Ci mettiamo anche la cremina sopra. Va bene, andiamo avanti. Quindi direi che per la guida all'ascolto di questa serie di introduzioni ai concerti, abbiamo cominciato la domenica scorsa, vi proponiamo Winterreise. Spero di averlo letto bene, perché come sapete col chissà. Tedesco. Tanto io non vado, è che ti posso contestare. Ci vado veramente d'accordo, sì. Winterreise, yeah. Franz Schubert. Sì, Franz Schubert. Winter Journey, il viaggio d'inverno, tanto per stare in tema, no? Poi vabbè, però va tanto di moda Game of Thrones, Winter is Coming, sicché non ci rompete le scatole. Ma poi scusa, ci si lamenta del caldo. Allora, qui stiamo a posto. Rinfrescatevi. Il viaggio d'inverno, appunto, è un ciclo di song, appunto, di quelli che si chiamavano leader, se non mi erro. I leader, certamente. I famosi leader che tanto di moda andavano nel periodo di Schubert, e questo è uno dei cicli più famosi per voce e piano, appunto, pubblicati nel 1828. Quindi 24 poemi di Wilhelm Müller, da Schubert musicati, perché i leader erano solitamente testi poetici. Sì, erano poesie, erano una composizione musicale molto interessante. Qualcosa vi abbiamo già fatto sentire, se vi ricorderete, nella puntata dedicata a Schubert. Però qui abbiamo modo di come dire, dargli più spazio, perché sono ben 24 leader tutto il ciclo del Winterreise. Quindi insomma avete modo di capire un po' tutto di come si dipanava questo, questo ciclo, perché appunto erano poemi messi in musica. Questa era proprio la forma del leader in generale. All'interno cicli così lunghi di leader, è chiaro che si aveva modo di sviluppare una tematica in modo molto più, più chiaro, più complesso. Insomma, non era la musichetta e la singola idea. Era solitamente un concept, come si direbbe, sì. No? Probabilmente, ora io non conosco il poeta esattamente da cui Schubert trasse questi leader, però credo che fosse un ciclo, e appunto essendo un ciclo avevano sicuramente un collegamento, insomma, innanzitutto il tema, perché appunto si parla di viaggio d'inverno, per cui Winter Journey. E in generale i leader erano proprio una forma usatissima in quel periodo, no? In questo tardo romanticismo, e addirittura venivano, proprio c'erano delle gare, c'erano delle competizioni, cioè i musicisti e i poeti si sfidavano proprio a colpi di leader, così sì. Nei salotti, ecco, dell'intelligenza, della musica. Freestyle. Sì, un po' sì, perché erano proprio una forma molto, molto nota, molto, molto usata. Più che la sonata così, no? Nel salotto, la sonata del musicista per un pubblico ristretto, i leader erano proprio, no? La forma cantata, quindi la versione, e poi tratti dai poemi, magari il poeta era anche abbastanza famoso, aveva un seguito, no? Quindi veniva invitato e faceva questa collaborazione. Sì, tra l'altro in realtà il Winterreise è interessante, al di là della composizione poi che segue, che ne fa Schubert, e quindi della musica, che ovviamente è molto importante, molto interessante, e poi lo vedremo. Tra l'altro è stata composta da Schubert un anno prima della sua morte, quindi insomma, sì, è l'ultimo, sì. Alla fine della sua vita, quindi aveva ben chiaro tutta una serie di cose. E poi vedremo, insomma, non a caso si parla di un viaggio, non a caso si parla del Wanderer, il viaggiatore, certo. Colui che erra in cerca di un perché, in cerca di un senso, che è un po' il non so come dire, l'archetipo principe. Gli inferi, no? Che sta alla base. Sì, erano un po' delle figure chiave del romanticismo tutto, e che sicuramente, soprattutto in Germania, insomma, era un qualcosa che bastava buttarla lì e tutti sapevano a cosa ti stavi riferendo, ecco. E al di là della interpretazione di Schubert e della sua opera, che sicuramente insomma, poi andremo a scandagliare un po' meglio, ma anche proprio Wilhelm Müller, che era il poeta appunto da cui poi viene tratto, cioè che mette le parole in tutto questo, esatto. Viene in realtà la sua figura è abbastanza passata in secondo piano negli anni, nei decenni, nei secoli a venire, perché chiaramente la figura di Schubert l'ha completamente messa in ombra. Ah, beh, sì. E Müller era un po', non era un certo Goethe, era un po' una figuretta, sì, così. Leggevo che veniva considerato un autore minore nella letteratura romantica tedesca. Fu soldato e bibliotecario imperiale a Dessau in Prussia. È morto giovanissimo, tra l'altro, a 33 anni. Quindi era già sì. Autore di altre liriche, tra cui queste. Winterreise fu composto in tempi diversi, leggevo, sì. In due parti dei 12 leader ciascuna, quindi 12 e 12, 24, sono 24 rispettivamente. Nel febbraio e nell'ottobre del 1827, quindi prima 12 e poi altre 12, e pubblicati separatamente il 14 gennaio e il 30 dicembre del 1828. Sì, in realtà lui ancora prima aveva pubblicato 4 quaderni nel 1821, che poi erano quelli che l'hanno portato un po' alla fama. Cioè, diciamo che questo Müller, in realtà, sebbene poi è stato un po' appunto figura minore, sì. Dimenticata e tutto, in realtà al tempo non era proprio il coglionazzo della situazione. Tant'è che soprattutto era un personaggio abbastanza scomodo, perché i romantici siamo abituati adesso a vederli su un piedistallo, ma al tempo erano un po' rivoluzionari della questione, soprattutto alcuni, soprattutto sì, in certe epoche. Certo. E nel 21 lui pubblicò questi 4 quaderni del Lieder der Griechen, con i quali divenne in Germania, sempre ovviamente, portavoce poetico dei filelleni, ovvero degli uomini di cultura, diciamo così, che difendevano le ragioni dell'indipendenza ellenica dalla dominazione turca. Per esempio, al movimento filellenico appartenevano uomini come Re Ludwig I di Baviera, ma anche Lord Byron, che insomma all'epoca era considerato un personaggio, se non rivoluzionario, sicuramente un personaggio molto scomodo. E tant'è che quella pubblicazione di Müller, proprio per il significato sovversivo in qualche maniera che portava, vietata. Sì, dapprima gli valse chiaramente una grande fama, però poi di fatto insieme alla fama arrivò anche la censura. Tant'è che in realtà Schubert lesse le prime 12 poesie pubblicate dalla seconda parte. Sì, perché le lesse sull'almanacco Urania, che tra l'altro è bellissimo, perché io ho letto le lesse sull'Urania. No, come? Sull'Urania? Già c'era, un'altra Urania. Un'altra. Ingenua. Di cui era vietato, il governo aveva vietato la diffusione nella capitale imperiale, proprio perché l'autore aveva scritto, cioè William Müller aveva scritto l'articolo su Byron. Sì, il governo l'aveva vietato. Aveva scritto un altro articolo, un lungo articolo su Byron, che fu giudicato moralmente e politicamente scandaloso. E quindi tutto quello che faceva pace, anche se Byron girava il caffè comunque. Poi altri 10 testi furono pubblicati dalla rivista Deutsche Blätter di Breslavia. Deutsche Blätter, sì. Esatto. E quindi le 24 poesie apparvero per la prima volta tutte insieme nel volume 77 poesie postume di un suonatore di corno itinerante. 1824, che Müller, e qui scusami perché no, l'ho voluto dire perché c'è la mia, mi si collega all'ossessione, perché Müller dedicò a Carl Maria von Weber, che è stato il padre intellettuale di Wagner fondamentalmente, è qui, capito? E quindi von Weber, il quale aveva fatto da padrino a suo figlio, cioè tutta qui andiamo, qui c'è telenovela infatti, e quindi appunto tra le diverse edizioni l'ordine delle poesie varia, come dicevi te, nel ciclo di Lieder, di cui l'autore appose il numero di opus 89, Schubert conserva l'ordine dell'edizione del 1823 per la prima parte, accodando le nuove liriche nell'ordine dell'edizione in volume, vabbè, insomma, comunque ci sono dei cambiamenti, ovviamente Schubert ha preso queste, le prime 12 e poi le seconde 12 e chiaramente l'ha usata in maniera diversa da come invece erano state dall'ordine di pubblicazione. Sì, tra l'altro Müller è morto anche lui prima, mi sembra proprio nel 28, comunque senza mai aver sentito la musica che Schubert gli aveva dedicato, quindi tristissimo. Esatto. L'ordine stabilito da Schubert vede terminare la prima parte, cioè l'allontanamento dall'amata, con la sequenza drammatica Early Trust, e iniziare la seconda, I tormenti della speranza, con Die Post. Quindi alla fine Schubert decide una diegesi un po' diversa rispetto a, forse perché per la musica gli era più funzionale, credo. Sì, vorrei... a livello di significato il Winterreise è molto importante nella poetica di Schubert, e innanzitutto perché c'è un elevare l'importanza del piano a quella della voce, mentre nel Lieder storicamente la voce era l'elemento fondante, quello più importante, quello su cui si fondava tutto. E il pianoforte accompagnava. Il pianoforte era sì, una sorta di accompagnamento, seppur importante, ma sempre secondario. In questo ciclo in realtà sono un po' paritetici e ci sono alcune altre cose che vi volevo far notare, che sono particolarmente interessanti, magari le noterete all'interno dell'ascolto. Sono le figure simboliche di alcuni animali che un po' simboleggiano i derelitti, i poveretti, quelli che vengono esclusi dalla natura umana e quelli che vivono un po' ai margini, e anche non solo gli esclusi ma anche quelli che escludono, gli escludenti. Quindi si dà molto corpo a quelli che vengono esclusi, ma anche quelli che prefigurano un destino funesto, che sono un po' i portatori del cattivo presagio. Ricordiamoci che, come dicevi te, il romanticismo apre una, anche se non in maniera scoperta come sarà più avanti, però apre una serie di critiche alla società, anche perché, come appunto ci insegnava una nostra amica l'altra sera, l'Ottocento è poi il momento in cui, no, dal 1815 in poi, la restaurazione di Vienna, le rivoluzioni finiscono, e almeno le grandi rivoluzioni europee sono appena finite, la società europea si restaura, si ferma, quindi le caste proprio si ricompongono e si cristallizzano, e quindi il romanticismo, no, che nasce da questo e va avanti, è proprio un momento di musica, in letteratura, in poesia, che chiaramente va visto sempre, no, contestualizzato, però è proprio un momento in cui invece si cerca di riscardinare tutto questo, cioè gli artisti proprio cercano di fare di fare fermo, di fare forza a questo cristallizzarsi, a questo bloccarsi della società con queste caste veramente ferme, no? E quindi anche i personaggi metaforici, i personaggi evocati da Schubert in generale, dalla musica, dalla letteratura, sono tutti personaggi che stanno lottando contro fondamentalmente una società opprimente, o quelli che ti opprimono, e poi certo ovviamente l'eroe e il suo sì, perché c'è un po' questa figura del wanderer, appunto dell'errante che gira, scappa e cerca di trovare un posto fondamentalmente nella sua vita, perché chiaramente il Winterreise in realtà se lo guardiamo in maniera proprio terra terra sarebbe l'amante che viene respinto dall'amata. Detto ciò, in realtà questo tema viene subito abbandonato ed è molto chiaro che in realtà è un po' più proprio l'intellettuale nell'età della restaurazione, appunto, di cui prima Virgi ci citava, che chiaramente cerca di trovare un senso, una ricerca di senso della sua vita. E poi l'artista, quello che soffre di più, no, in questa società, perché ovviamente è una società che richiede la totale abnegazione, la totale adesione alle idee, per quanto rigide, per quanto appunto ferme, e quindi l'artista è quello che poi o fugge o rimane combattendo, però una battaglia che è persa in partenza fondamentalmente, e che poi magari avanti nel futuro, ma chiaramente bisogna arrivare al 900 Novecento, fondamentalmente, per avere, no, altre rivoluzioni culturali. Per cui leggevo invece che però il piano, per esempio, a livello musicale, il pianoforte provvede a vividi effetti all'immaginario del poeta sulla natura, per esempio le voci degli elementi, le creature viventi, l'urlo del vento, l'infuriare della tempesta, lo scorrere, sì, dell'acqua. Sì, che però servono a darti appunto sempre questi personaggi, a caratterizzare bene questi personaggi che sono molto importanti. È bene che tu capisca il ruolo che hanno all'interno, certo, della storia. Quindi quando sentite dei suoni un po' più calcati, sono ad esempio l'abbaio del cane che manda via il Wanderer, cioè l'errante dalla casa dell'amata, per esempio. Certo. O il cane che abbaia, un altro cane che abbaia, cioè aveva con cani, giustamente. Altro cane che abbaia per mandar via il suonatore di organetto, insomma. Sì, è veramente un lavoro interessante. Leggevo tra l'altro un buffissimo sulla chiusa finale che facevano le sciubertiadi, cioè durante le quali venivano interpretati lì delle gare, capito? No, le sciubertiadi, scusate, come buttarla in caciara, però ci voleva. Meraviglia. Sì, sì. Va bene, in attesa, allora, delle nostre sciubertiadi. Io non vi leggerò tutti l'interezza, non vi cito tutti i leader, che sono 24, anche perché sono tutti in tedesco, io non, la mia pronuncia è orribile, ma ve li metteremo sul podcast. Ma vi posso dire che gli interpreti di questo ciclo sono due, ovviamente, essendo voce e piano. Alla voce, tenore Jan Bostridge, tenore inglese, molto interessante secondo me nell'esecuzione di questi leader, e Julius Drake invece al piano. E boh, ve li facciamo sentire? Direi. E alla prossima. Beccateveli. Ciao, ciao, ciao. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, dabei war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt im Schnee. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt im Schnee. Lass ihre Hunde heulen. Meinem Wahn, sie pfiff den armen Flüchtling aus. Er hätte sie bemerken sollen, des Hauses aufgestecktes Schild, so hätte er nimmer suchen wollen, im Haus ein treues Frauenbild. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Der Wind steht drinnen mit den Härten wie auf dem Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Was fragen Sie meine Schmerzen, ihr Kind ist eine reiche Frau. Tränen, meine Tränen und seid ihr gar so lau, dass ihr erstarrt, so eitel wie kühle Morgentau. Und trinkt doch aus der Quelle die Brust so glühend heiß, als wolltet ihr zerschmelzen des ganzen Winters Eis, des ganzen Winters Eis. Ihr trinkt doch aus der Quelle die Brust so glühend heiß, als wolltet ihr zerschmelzen des ganzen Winters Eis, des ganzen Winters Eis. vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinen Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immer vor. Auch heute wandern vorbei in tiefer Nacht. Da hab ich noch im Dunkel die Augen zugemacht und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu: Komm hier zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe. Die Kalt grad ins Angesicht, der Hut flog mir vom Kopf, ich wendete mich nicht. Manche Stunde entfernt von jenem Ort, und immer hör ich's rauschen, du fändest Ruhe dort. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort, und immer hör ich's rauschen, du fändest Ruhe dort, du fändest gefallen in den Schnee, seine kalten Flocken saugen durstig ein das heiße Wind. Gräser sprossen wollen, weht daher ein lauer Wind. Und das Eis zerspringt in Schollen und der weiche Schnee zerrinnt. Oh, Beiden Sohlen zieh ich auch schon auf Eis und Schnee. Ich möchte nicht wieder Atem holen, bis ich nicht mehr die Türme sehe. Hab ich an jeden Stein gestoßen, so eilt ich zu der Stadt hinaus. Die Krähen warfen Bell und schlossen ab einen Hut von jedem Haus. Die Krähen warfen Bell und schlossen ab einen Hut von jedem Haus. Wie anders hast du mich empfangen, du Stadt der Unbeständigkeit, an deinen blanken Fenstern sangen die lärchende Nachtigall im Streit. Die runden Lindenbäume blühten, die klaren Rinnen rauschen hell, und als zwei weten Augen glühten, da war's geschehen um dich Gesell. Und als zwei weten Augen glühten, da war's geschehen um dich Gesell. Mir der Tag in die Gedanken, möcht ich noch ein Rücken ziehen. Möcht ich zur Rücke, die der Wanken vor ihrem Hause stille stehen. Kommt mir der Tag in die Gedanken, möcht ich noch einmal rückwärts ziehen. Möcht ich zur Rücke, die der Wanken vor ihrem Hause stille stehen. Möcht ich zur Rücke, die der Wanken vor ihrem Hause stille stehen. Vor ihrem Hause stille. Jedes Leiden Träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähte, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, ich schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, ich schrien die Raben vom Dach. Fensterscheiben, wir malte die

keinen Brief für dich. Was drängst du denn so wunderlich? Mein Herz, die Post bringt keinen Brief für dich. Mein Herz, was drängst du denn so wunderlich? Mein Herz, nun ja, die Post kommt aus der Stadt. Krähe war mit mir aus der Stadt. hat gezogen, ist bis heute viel und viel um mein Haupt geflogen. Krähe, wunderliches Tier, willst mich nicht verlassen? Meinst wohl, bald als Beute hier meinen Leib zu fassen? Nun, es wird nicht weit mehr gehen an dem Wanderstabe. Krähe, lass mich endlich sehen. Manches bunte Blatt zu sehen. Und ich bleibe vor den Bäumen oftmals in Gedanken stehen. Schaue nach dem einen Blatte, hänge meine Hoffnung dran. Spielt der Wind mit meinem Blatte, zittr ich, was ich zittern kann. Ach, und fällt das Blatt zu Boden, fällt mit ihm die Hoffnung ab. Ich selber mit so Wein, Wein auf meiner Hoffnung Grab. Wein, Wein auf Inun, inun,

dass ich Menschen sollte scheuen. Welch ein törichtes Verlangen treibt mich in die Wüstenein, treibt mich in die Zeichen sein. warm Herz geschenke. Doch weisest du mich an. Und er lässt es gehen, alles wie es will.